Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano... Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Simon non ha mai visto un tramonto. Simon non ha mai visto un cielo azzurro, un paio di tette, una Ferrari, una chitarra, un fiore, la luna, la luna, la luna. Simon non ha mai visto niente perché i suoi occhi sono così, dalla nascita. Non vedono. Zero. Zero. Simon però non vuole essere un diversamente abile, un portatore di handicap, un non vedente. Simon non vuole essere identificato per ciò che non è, un vedente, ma per ciò che è, un cieco. Perché in ciò che è, un cieco, c'è una dignità, un'identità, una definizione dell'essere che non gli ricorda continuamente quello che non è mai stato e non sarà mai. Ecco, Simon non vuole essere vittima del politicamente corretto, di quel pensiero unico e neopuritano che nell'ansia di non offendere nessuno appiattisce tutti. Uniforma, livella, silenzia. Invece di risolvere i problemi, li aggira e poi li rinomina, trasformando il buio perpetuo di Simon in una questione di termini, invece che di azioni. Soltanto alla fine di questa puntata capiremo il valore effimero del politicamente corretto. Per ora andiamo a scoprire 10 cattivi maestri, 10 canzoni italiane politicamente scorrette che non hanno ferito il tempo che le ha partorite, ma che oggi ci sembrerebbero razziste, irrispettose, ingiuste. Un viaggio nel costume che cambia, con i suoi punti di riferimento mobili, sempre più attenti a non ferire, sempre più incapaci di incidere. Mettetevi scomodi. Inizia Polaroid. Di storia della musica. 1979. Sono passati 4 anni dall'omicidio di Pierpaolo Pasolini sulla spiaggia di Ostia. Regista, scrittore, omosessuale, trucidato dal ragazzino che si era portato in camporella per una questione di soldi, dice il tribunale. Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. E non importa se più avanti l'omicidio diventerà politico, collettivo, fascista. Per l'Italia degli anni di piombo, gay vuol dire pervertito. Frocio, deviato, antisociale. Una roba da stilista se ci sono di mezzo tanti soldi, da travestito se ce ne sono di meno. In questo clima da caccia alla checca, Giuni Russo e il paroliere di Raffaella Carrà escono con un singolo che è un inno al rapporto orale con Ciupito, fra uomo e uomo. Cristiano Malgioglio è il frutto proibito e vuole essere sbucciato. Coglimi, frutto fresco tu sarò. Mangiami finché non ti sazierò. Scioglimi, è un veleno dolce mio. Cacciami, tanto ormai lo voglio io. Usami fino a che ti servirò. Bevimi, la tua sete asciugherò. Portami dove mi nasconderai. Giocami, ma i miei conti non avrai. Qui senza te ho fatto in aria i miei cioè. Ti salverò, almeno un po' ci proverò. Ti schiaccerò, alle tue notti mi darò. Completerò, ci riuscirò, ma che ne so. Tu senza me rispogli a terra i miei sé. Ti sfascerò, ti straccerò, ti sfinirò. Contratterò nella tua lista, ci entrerò. Via dai con calma tuo sarò. Mangiami finché non ti sazierò. Scioglimi, è un veleno dolce mio. Cacciami finché non ti cacci io. Qui senza te io sbatto in aria i miei cioè. Ti salverò, almeno un po' ci proverò. Ti schiaccerò, alle tue notti mi darò. Completerò, ci riuscirò, ma che ne so. Tu senza me poi a terra in sé. Ti sfascerò, ti straccerò, ti 1983. Sapete cosa vi dico io? Che a me le vecchie mi tirano più delle ragazzine. Guardate la biondona lì, altro che la tigre di Cremona, la tigre del materasso. Nell'Italia di Sapore di Mare, lo stupro è un reato contro la morale pubblica e il buon costume. Diventerà crimine violento contro la persona solo nel 1996, 13 anni dopo. Del resto, il matrimonio riparatore è stato abolito solo da 2 anni. L'aborto reso libero e assistito da meno di 5 e dopo almeno un decennio di piazze, manifestazioni, proteste. La violenza sessuale è radicata nelle cronache, nelle periferie, nelle famiglie. Oltre 100.000 sono i casi denunciati ogni anno, di cui 16.000 a carico di maschi minorenni. Oggi la violenza di genere ha un giorno dedicato. I casi sono un 20esimo di allora. Molte parlamentari hanno messo la causa al centro della propria agenda e della propria attività politica. Ma chissà come reagirebbero la stampa, gli opinionisti, i social se alle 9 di sera, sulla TV generalista, Marcella Bella in tubino di pelle chiedesse di essere violentata. Chiedesse di essere violentata. Chissà la Boldrini, la Carfagna, la Lucarelli. La Lucarelli. E tutte noi. Miau. Sorridere sì, piuttosto sì, confesse così, comunque, sempre donna mio caro, io resto. Conoscersi un po', parlarsi un po', è utile, sai, purtroppo. Io non posso concludere presto. Son timida e vero, con pudore, ma è inutile che tu dica che tipo di immagine rischio. Sto ferma se vuoi, brutale, no, non ti assalirò, ti prego. Ricordati che non sono un maschio. Oh no. Sei pura, non va, ti sembrerebbe un incesto, un incesto, un incesto. Imprega se vuoi, pesante vai, stupiscimi dai, comincia. Fa presto, fa presto, fa presto. Con due giarrettiere, meglio nere, nuda mai, bollente. Infedele, vorace, impaziente. Sto ferma se vuoi, brutta. 1980, quando un'allegoria del cazzo vinse il Festival Bar. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Donatella Rettore è il punk italiano. La spaghettizzazione dei Sex Pistols che si fa trucco pesante, capelli, tematiche provocatorie. È incitamento all'autolesionismo di quello autentico, tagliente, altro che minchiate di TikTok. È lo sputtanamento della chirurgia estetica, il trattamento splendido splendente che rende le donne tutte uguali, tutte zigomi, tette e labbra. Un esercito di involucri di plastica che per non invecchiare diventano manichini. Ma il Cobra è il capolavoro di Donatella, un tributo osceno al desiderio di minchia che oggi farebbe esplodere le meningi del garante e che allora, all'Arena di Verona, con la conduzione di Vittorio Salvetti e le telecamere di Rai 2, raccolse l'applauso più grande del Festival dell'estate. Un plebiscito per il serpente che invece era un uccello. Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia dove passi tu, dove passi tu. Cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è un pitone, ma un gustoso boccone che diventa canzone dove passi tu, dove passi tu. Di storia della musica si ferma e torna tra poco solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è il Polaroid, istantanei della storia della musica. Prestaci attenzione, Bifolco. Il 20 febbraio del 1958, con la legge che porta il suo nome, la senatrice socialista Lina Merlin decretò la fine delle case di tolleranza. Per capirci, i bordelli. Il provvedimento, passato a larga maggioranza con voti bipartisan, fu salutato come un importante progresso nella valorizzazione del ruolo della donna nella società e della parità dei sessi. E sotto certi aspetti, probabilmente lo fu. La legge Merlin non pose fine tuttavia alla prostituzione. La spostò dai casini alle strade di provincia, dallo sfruttamento organizzato a quello improvvisato, aprendo la strada prima alla criminalità organizzata, poi all'immigrazione clandestina. Le puttane della statale divennero prima fenomeno e poi cliché. Quanto vi prende lei? 100 bocca, 150 completo. No, scusi, c'è un parametro illogico in questa sua richiesta. Cioè, non riesco a capire come un semplice boccaglio possa costare il 35% in meno rispetto al rapporto completo. Qua mi fa sorgere due dubbi. O lei, dal punto di vista orale, è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi, Ma che cosa vuoi da me? Voglio pagare il mio boccaglio come una persona onesta, scusi, come lo pagano tutti. Così, quando nella primavera del 1979 la modella Viola Valentino pubblica il suo primo singolo, Comprami, la reazione delle femministe è veemente e decisa. La vogliono spolpare. Ma il brano passa la censura, entra in classifica e domina il cantagiro, con quella voce leggera, suadente e sussurrata che ancora oggi fa mettere una mano sul portafoglio e l'altra sulla leva del sedile. Se sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei un uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se 1979, Roma. Renato Zero c'è cascato di nuovo. Dopo lo scalpore del triangolo, il nemico numero uno della Democrazia Cristiana ha pronta un'altra freccia ambigua, provocatoria. è un lato B, la schiena de Il Carrozzone, metafora mai abbastanza capita proprio dell'eterno partito di governo di Andreotti. Una baracca contraddittoria che trascina il paese verso l'immobilismo, con le sue regine, i suoi fanti e i suoi re. Il titolo è Il Baratto, uno scambio di organi, come un mercante in fiera chirurgico che riporta il sesso alla sua radice animale. Un puro commercio di carne e liquidi. E la transessualità? Soltanto questione di appendice. O te la togli o te la tieni e sei felice. Con buona pace di Vladimir Luxuria. Il tutto ovviamente su Rai 1, con la benedizione di Pippo Baudo che in prima serata presenta Fantastico Zero. Ora vai e che Sanremo sia con te. E con il tuo fantastico. Renato Zero. Trova un pretesto, una ragione di più perché io ti dica del tuo. Dammi una traccia, una tua foto, semmai dammi gli estremi tuoi. Poi dimmi con calma quante crisi hai. Se tu ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice. Voglio conoscere più cose di te, le più recondite. Prima di darti la mia verginità voglio la verità. Io ho avuto pochi amori in vita mia. Se prescindi dall'affetto di una cagna e per giunta con la rugna, ehi, se ti do il vero tu che mi dai, ehi, ti do la milza tu che mi dai, se ti do il colpaccio che mi dai, per poi volare io ci troviamo il riscatto. Di qualche cosa ti puoi anche privare, dai facciamola fare. Se io ti do un occhio poi mi guarderai. Se ti darò il cuore lo farai pulsare o lo getti in fondo al mare. Autunno, fine degli anni 70. Signorina Lovelace, apra la bocca su, apra la bocca. Ah, eccolo laggiù quel birbantello, laggiù! Che cosa? Ma come cosa? Il suo clitoride ce l'ha proprio in fondo alla gola. In via Lambro un uomo sta collegando l'impianto elettrico della sua sala cinematografica ad una vecchia sirena dei pompieri, fissata alla parete con due grosse viti. La luce rossa illumina la via, le macchine parcheggiate, la faccia di un tizio che fuma sul balcone e guarda la scena, senza sapere che sta assistendo alla nascita di qualcosa. Perché lì, al Civico 14, sta per essere aperto il Majestic, la prima sala a luci rosse di Milano e di tutta Italia. Bene. È il 15 novembre 1977, il giorno in cui lo spartito di Pensiero Stupendo passa dalle mani di Morandi a quelle di Fossati, dalla voce della Bertè a quella di Patti Pravo, che in un triangolo con un uomo e una donna, nelle sale del Piper di Roma, probabilmente se lo era fatto davvero. E forse anche due. Mentre Wojtyla disfaceva le valigie. E tu e noi e lei tra noi vorrei, ma so che lei non ha le mani, le sue pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, o prima o poi, poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Lei adesso sa che vorrei le mani, le sue, e poi un'altra volta le due. Vorrei per amore, per ridere, dipende. Manhattan. giornalista Tom Wolfe, inviato del New York Magazine, racconta il ricevimento organizzato dal miliardario Leonard Bernstein nel suo attico di Park Avenue per sostenere il movimento delle Pantere Nere con una raccolta di fondi tra imprenditori e artisti. In quell'occasione Tom Wolfe conia un termine nuovo per descrivere la ricca borghesia con pose di sinistra che avrà davvero molta fortuna. Li chiama radical chic, o come dicono i francesi, gauche caviar, la sinistra al caviale. Applicato con successo anche a parte della classe dirigente italiana, il termine radical chic integra anche gli atteggiamenti supponenti e culturalmente elitari di chi si professa idealmente vicino al popolo, ma socialmente altrove. Proprio per dispiacere a questo circolo di comunisti con Rolex che coccolano il suo percorso artistico, Lucio Dalla decide di scrivere il più provocatorio dei suoi pezzi. Sceglie la notte, Bologna, una puttana, un berlinese e una sega come titolo di coda. Disperato erotico stomp. Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e t'eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, me. molto grande. Però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande. Prima di salire le scale mi son fermato. È partita la mia mano. Polaroid. Istantanei di storia della musica. Si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanei di storia della musica. Su Radio 105. E poi c'è Vasco. Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo se Vasco rimane da solo come un pirla. Colpa di Alfredo. Ma anche della ragazza indipendente e dell'afroamericano con la bella macchina, come le chiameremmo oggi, disinnescando tutta la forza emotiva della canzone. Perché Vasco non è Vasco senza deviazioni lessicali. Senza riferimenti allo sballo, alla vita spericolata, agli psicofarmaci. 100 gocce di vaglio. Per dormire del tutto. Vasco è la slot machine del politicamente orrendo. Si spappola il fegato, irrompe negli asili. I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino. Ci vuole lo stiro. Ci vuole un dolcino. È una bomba che non si disinnesca. È il Blasco che è stato prima un rospo. È la coca, quella senza cola. Dal festival in roba alle svarionate con Mike Bongiorno, Vasco è la bandiera della vita come Steve McQueen. È la violenza fisica e verbale che non ha paura del rapporto causa-effetto. Se mi fotti la radio, ti taglio la gola. Di coscienza, ma che scemenza è stato parlarti di me. Tu che sei solita, solita sì, ti piace divertirti sì. Tu che sei solita, solita sì. clemenza, la delinquenza la vuole trattata così. Lei era solita, solita sì, e avrebbe fatto sempre così. '92, cinquecentenario della scoperta dell'America. Mezzo millennio dopo il viaggio di Colombo, la condizione della donna non è poi cambiata di tanto. Il 56% non lavora e il 44% che lo fa guadagna mediamente 2/3 di un uomo per fare lo stesso lavoro nello stesso tempo. Il popolo italiano ama la casalinga con la gonna un po' lunga, la mamma dalle buone maniere di Edoardo Bennato. La femmina che vuole affermarsi sul lavoro, invece, ha qualcosa di sospetto, di strano, di innaturale. La donna in carriera alle porte del 2000 è ancora e soltanto un film con Melanie Griffith e Sigourney Weaver. Il signor Jack Trainer chiede di lei, signorina McGill. Grazie, Cinzia. Non c'è per nessuno, vero signorina? Ah sì, Cinzia, grazie. E le porto qualcosa, signor trainer? Caffè, tè, me? E tra parentesi, quelle poche che ci sono stanno pure sui coglioni a Roberto Vecchioni. Troppo dinamiche, arriviste, ambiziose. Agli sgoccioli del secondo millennio, il professore di luce a San Siro vuole ancora e ancora una volta soltanto una donna con la gonna. Una canzone di Natale che le... Roma. Io conto 6 colpi, negro. Io conto 2 pistole, negro. In un'intervista a Libero, l'ottantenne Edoardo Vianello parla della canzone che lo ha lanciato nel lontano 1963. Iva Tussi. Racconta che il nome dei giganti africani inventori dell'Alligalli deriva dalla popolazione dei Tutsi, uno dei 2 principali gruppi etnici del Ruanda. Al giornalista che gli chiede come mai, nell'ultimo mezzo secolo, non abbia mai modificato la parola negri, che contiene in sé il seme della discriminazione e della segregazione, l'anziano cantante risponde che il politicamente corretto è stupido quando si occupa di cambiare la forma prima della sostanza. C'è stato un tempo in cui quella parola non era proibita. Non dobbiamo cancellarlo, dobbiamo correggerlo. Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Alligalli, Alligalli, Alligalli. Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi, gli altissimi negri. Ogni 3 passi facciamo 6 metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatussi. Siamo i Vatussi. Siamo i Vatussi. Gli altissimi negri. Quello più basso, quello più basso è alto 2 metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vatussi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio. Siamo i Vatusi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, esiste un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, quello più basso, quello più basso, è alto due metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore. Siamo i Vatusi, qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vatusi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per più la luce del sole. Noi siamo i Vatusi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, esiste un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Deviazione, provocazione, politicamente scorretto sono la fonte stessa dell'arte e della comicità. Sono il dito medio di Cattelan davanti alla Borsa di Milano, la merda d'artista, la commedia all'italiana, lo stereotipo che diventa arma. Chiama gli omosessuali gay e avrai Filadelfia. Chiama le checche e avrai il vizietto. Chi si batte per un mondo senza estremi goliardici, osceni, offensivi, vuole un'umanità a misura di nulla. Un esercito di automi impegnati a non disturbare, allineati ad un potere che gli dice cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Lasciate il politicamente corretto a chi di politica vive e la libertà d'espressione a chi sa far ridere, sognare, immaginare. Tenetevi il bianco e nero. Lasciateci i colori, come uno scatto di Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna domenica prossima alle 23. Alle 23. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Alisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot.